Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come sempre da lunedì e venerdì a finire la giornata insieme, a iniziarla anche questa essendo lunedì. Cose molto negative naturalmente sono in primo piano: la strage dei cittadini cinesi a Prato, poi ne parleremo, e poi anche il maltempo che uccide. Ci sono state ancora due vittime in Calabria, l'ultimo è stato travolto un pescatore. In tutto questo c'è la politica che continua a dibattere, sferzate, veti incrociati, frecce, dardi, eccetera eccetera, e intanto nulla da fare ancora per la legge elettorale, che domani arriva in Corte Costituzionale, al Senato. Oggi c'è stato un tentativo, l'ennesimo andato a vuoto, per cercare di cominciare a mettere mano a questo porcellum, però a quanto pare, cioè, non c'è la volontà, non c'è un accordo. Vedremo, deciderà la Corte Costituzionale il da farsi. Quindi molte le notizie anche oggi, ne approfondiremo come sempre con diversi ospiti che ci saranno. Vi ricordo anche i due spazi su cui potete fare liberamente i vostri commenti, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi SMS, che è il 349-238-6666. Potete come sempre sbizzarrirvi su tutti gli argomenti della serata. In particolare io vi chiederei di cominciare a dire, visto che mancano 6 giorni alle primarie del PD, qual è il vostro candidato preferito tra Cuperlo, Renzi e Civati, e soprattutto perché. Io direi di iniziare comunque con i titoli dei fatti principali. Partendo dal rogo di Prato, appunto, il ministro del lavoro Giovannini denuncia: in quella zona sono irregolari 3 aziende su 4, e tra l'altro c'è Napolitano che scrive proprio una lettera su quella tragedia, dice: insostenibili illegalità e sfruttamento. L'emergenza maltempo, come si diceva, al centro-sud in particolare, una donna annega a Pescara, un pescatore travolto da un'onda in Calabria. E poi, scusate, la verifica di governo. Il presidente del Consiglio Letta è salito al Quirinale per il colloquio con Napolitano e sulla crisi dice: la ripresa è a portata di mano, ora serve concretezza. Ucraina, il premier attacca i manifestanti pro-Europa, ma intanto Kiev torna a dialogare con Bruxelles. Calcio verso i mondiali di Brasile 2014, riprendono i lavori allo stadio di San Paolo, ma intanto preoccupano costi e disponibilità di voli e alberghi. E c'è già un risultato anche di calcio, dal posticipo della 14ª giornata del campionato di Serie A: Fiorentina-Verona è finita 4-3. E cominciamo allora adesso ad approfondire. Partiamo quindi dalla tragedia annunciata di Prato, ormai da più parti definita tragedia annunciata, perché da quanto tempo si sa che Prato si sta sviluppando in questo modo, con una comunità cinese in buona parte naturalmente assolutamente legittima e legale, e dall'altra parte però quanto un sistema, quanto grande questo sistema di illegalità che produce schiavi, iniquità e queste tragedie. Vorrei collegarmi con Ubaldo Cianciulli. Ciao Ubaldo. Ciao Roberto, buonasera. Ubaldo, prima ti vorrei far sentire qualcosa, prima di raccontarci un po' la cronaca che sei stato appunto in questi giorni lì a Prato, naturalmente a sentire quello che succede, quello che si sta muovendo, a sentire anche gli umori della gente. Ma agli inizi del 2013 nel distretto aziendale di Prato è emerso un tasso di irregolarità, pensate, del 76%, lo ha detto il ministro Giovannini, che ha aggiunto che sta preparando il piano dei controlli 2014 e che ci si concentrerà sulle aree a più alta irregolarità. Allora sentiamolo, il ministro Giovannini al microfono di Leonardo Rossi. Insieme ai colleghi stiamo comunque preparando il piano per i controlli del 2014, stavamo raccogliendo già tutti i documenti e io incontrerò, spero questa settimana, i direttori delle direzioni territoriali del lavoro a più alta intensità di irregolarità, tra cui Prato. E abbiamo su Prato, per ciò che riguarda l'irregolarità complessiva, un tasso del 76% delle imprese verificate erano appunto irregolari, a fronte di un 63% medio della Toscana. E in particolare su Prato abbiamo riscontrato in questi mesi molti più lavoratori irregolari. Insomma, cose che dovevano essere risapute già da tempo. Comunque, Ubaldo Cianciulli, visto che hai passato delle giornate lì, qual è una tua istantanea della situazione di Prato? Sai Roberto, il discorso che tutto si sapeva e tutto era alla luce del sole è pacifico, lo ha confermato il sindaco Roberto Scenni oggi, lo ha confermato il procuratore del capo Piero Toni, lo ha confermato il presidente della giunta regionale Enrico Rossi. E tutti lo sanno, tutti lo sapevano. Noi abbiamo fatto anche qualche anno fa uno speciale su Prato, sui cinesi. A Prato non solo c'è la zona del Macrolotto, che è nota per essere ricca di capannoni, dove ci sono insegne miste italiane e miste cinesi, ma dove quello che è successo ieri alla Teresa Moda può succedere in qualsiasi altro capannone, questo lo ha sottolineato anche il sindaco Cenni. Ci sono intere strade a Prato, città di Prato, che sono monopolizzate dai negozi cinesi, dove un negozio di un italiano, tra virgolette, è veramente una rarità, cioè sembra realmente di essere in Cina, perché comunque si parla cinese, perché comunque si ti giri e vedi volti cinesi, dove effettivamente gli italiani sono pochi, coloro che hanno resistito all'invasione, tra virgolette, al monopolio cinese. Ora, se tutti sapevano e se il sindaco Cenni ci dice che effettua 400 controlli l'anno da 4 anni a questa parte, cioè da quando la giunta del centrodestra è subentrata a 10 anni di giunta di centrosinistra, dice però che effettivamente non ce la fanno, questi controlli non sono sufficienti, perché comunque su Prato ci sono 40.000 cinesi, tra coloro che sono residenti nella città del tessile, coloro che arrivano nella città dai comuni limitrofi, ma ci sono anche dai 20.000 ai 40.000 cinesi irregolari, ed è una stima molto approssimativa. Questo ci fa capire che effettivamente forse non ci sono i mezzi adeguati, non ci sono gli strumenti adeguati per poter fronteggiare questa proliferazione. Questa proliferazione però che non è nata dall'oggi al domani, certo, è andata avanti nel corso degli anni, sono nel molti corso anni. Dei lustri, c'è stato un disimpegno totale del mondo politico e anche del mondo commerciale, perché comunque faceva comodo agli amministratori, faceva comodo agli imprenditori locali a far arrivare soldi freschi, manodopera a basso costo, per rivitalizzare un settore del tessile che stava morendo, complice anche la crisi. Se prima il tessile era contrastato da una produzione illegale o comunque paralegale che arrivava dalla Cina, a questo punto tutto quello che è made in town, quello che è tutto made in Prato, made in Italy, ormai viene effettuato dai cinesi direttamente. Ubaldo, fanno in casa, cioè ci fanno le scarpe in casa. Chiarissimo Ubaldo Cianciulli, poi ritorneremo ancora su questo argomento. Vedo anche un messaggio di un ascoltatore, Marco da Torino, che dice: ipocrita a parlare di illegalità dei cinesi, si sa benissimo che anche quelli italiani sfruttano i dipendenti, e poi in fatto di illegalità gli italiani sono imbattibili. Ma lì, questo è vero, ma lì è una zona veramente particolare, dove la questione si è terribilmente incancrenita. Dico, ci torneremo con un cittadino famoso di Prato. Intanto però, appunto, è polemica sulle condizioni di lavoro di molte fabbriche nella zona, come dicevamo, e sui controlli. Una strage annunciata, sono in molti in queste ore a parlare così dell'incendio di Prato, una vicenda che sembra aver messo a nudo l'inadeguatezza della risposta degli enti incaricati di vigilare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A fotografare la situazione delle fabbriche dormitorio di Prato sono anche i dati diffusi oggi dal ministro del lavoro Giovannini. Per ciò che riguarda l'irregolarità complessiva, un tasso del 76% delle imprese verificate erano appunto irregolari, a fronte di un 63% medio della Toscana, e in particolare su Prato abbiamo riscontrato in questi mesi molti più lavoratori irregolari. Se non si fa qualcosa di risolutivo, rischiamo di importare il peggio della globalizzazione, commenta la presidente della Camera Boldrini, mentre i sindacati parlano di condizioni di lavoro ai limiti della schiavitù. Sono anni che lo denunciamo, ma sono poche le aziende a capo di questa filiera che si sono mostrate sensibili, spiega Alessio Grammolati, segretario generale della CGIL Toscana. Chiediamo che vengano fatti accordi per la tracciabilità, la possibilità che queste realtà rispondessero in solido degli abusi commessi sui lavoratori è una nostra proposta, anche su questa non abbiamo avuto risposta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso a un'altra emergenza, quella del maltempo. Fra le regioni maggiormente colpite ci sono Abruzzo, Marche, Basilicata, Calabria, Puglia, con gravi conseguenze. A Pescara, in Abruzzo, una donna di 57 anni è morta annegata nella sua auto in un sottopassaggio invaso dall'acqua. E purtroppo in serata è arrivata la notizia di un'altra vittima in Calabria, la cui costa è a tratti devastata dalle forti mareggiate. Un uomo di 30 anni è morto travolto dalle onde mentre pescava la foce del fiume Crati nei pressi di Rossano, mentre un suo compagno di pesca è rimasto ferito. Ovunque nelle regioni citate, allagamenti, strade chiuse, frane, fiumi esondati o a rischio esondazione. Per l'Abruzzo gli sfollati tra Pescara e Teramo sono già 1600 e domani verrà presentata la richiesta dello stato di emergenza. Più tardi vedremo anche, sentiremo quali sono le previsioni per domani e per i prossimi giorni. Ma passiamo alla politica. Il presidente del Consiglio Enrico Letta è salito al Quirinale nel pomeriggio per incontrare per una cinquantina di minuti il presidente della Repubblica Napolitano e per fissare insieme modi e tempi del passaggio parlamentare necessario dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Napolitano ha fatto sapere con una nota del Quirinale che la richiesta di fiducia, sarà possibile già per la prossima settimana e Letta concorderà quindi tempi e modi con i presidenti delle Camere. Ma è di poco fa la notizia e l'annuncio al ministro Dario Franceschini che il governo sarà in Parlamento l'11 dicembre, la mattina alla Camera e il pomeriggio al Senato. Comunque quello di Letta è un colloquio col Capo dello Stato che arriva al termine di una giornata delicata perché c'è stato anche il vertice tra Italia e Israele assieme al premier israeliano Netanyahu per il quarto vertice intergovernativo. Il premier oggi è intervenuto anche sui temi della crisi e della possibile ripresa. Dice ora serve concretezza. Questi accordi sono stati firmati, adesso devono diventare pratica, devono diventare fatti concreti, devono diventare qualcosa che aiuti il nostro paese, i nostri paesi a migliorarsi, a essere più efficienti e quindi a creare quelle condizioni per la crescita e la crescita dell'occupazione che sono l'obiettivo di ogni governo e del nostro governo in particolare in questo momento in cui l'uscita dalla crisi economica appare così a portata di mano, ma in cui la concretezza dei risultati deve essere assolutamente portata a un livello ancora maggiore di implementazione. E sul tema è intervenuto da Washington anche il ministro dell'economia Saccomanni. Fare delle previsioni dice sempre difficile, ma penso che se l'Italia continuerà a perseguire gli obiettivi macroeconomici il processo di ripresa può riprendere piede. E anche oggi è stata una giornata di fibrillazioni nella nuova maggioranza e domenica, come vi dicevo, ci sono le primarie del PD. Messo da parte lo strappo di Berlusconi, di Forza Italia, l'opposizione e l'ostacolo che si pone sul cammino del governo Letta, secondo molti osservatori, è rappresentato da Matteo Renzi, probabile segretario del PD. E allora sono tanti messaggi lanciati al sindaco di Firenze, chiediamo un contratto di governo Italia 2014, spiega Alfano, per dire senza giri di parole che deve durare un anno e che deve contenere alcune questioni ineludibili. Si può fare come in Germania, aggiunge sempre dal nuovo centrodestra Lupi. Decidiamo 5 punti insieme, ricordiamo ovviamente a Renzi e al Partito Democratico che questo non è il governo della sinistra o del Partito Democratico, è un governo eccezionale che vede due forze, il nuovo centrodestra e il centrosinistra, che sono sempre alternativi politicamente, collaborare insieme. Taglio dei costi della politica, piano per il lavoro ed Europa, le priorità di Renzi per il prossimo anno. Ridurre di 1 miliardo il costo della politica facendo regole chiare. Un piano per il lavoro che consenta di tornare a assumere i giovani precari e i cinquantenni espulsi dal mondo del lavoro, fare dell'Europa il luogo dei nostri sogni e non dei nostri incubi. Renzi vuole vincere il congresso e far cadere Letta per prendere il suo posto, è scritto, commenta dalla Lega Maroni. Forza Italia attacca invece Alfano, si assume la responsabilità di tenere in vita questo governo facendo il rotino di scorta del Partito Democratico, dice Fitto. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci ora all'estero, le manifestazioni pro Unione Europea, a cui negli ultimi giorni hanno preso parte migliaia di persone in Ucraina, somigliano a un colpo di Stato, così dice il premier ucraino Azarov. E poi in Francia, dove Bob Dylan è stato iscritto nel registro degli indagati a Parigi per ingiurie sulla base di una denuncia presentata da un'associazione croata di fronte alla giustizia francese. E per chiudere il calcio, con il conto alla rovescia verso i mondiali di Brasile 2014, venerdì il sorteggio dei gironi della fase finale, mentre sono ripresi in mattinata i lavori allo stadio di San Paolo dopo il crollo avvenuto mercoledì scorso e costato la vita a 2 operai. Intanto è allarme per i voli e posti letto, prezzi quadruplicati e disponibilità ridotte. Poi, per quanto riguarda invece le sfide della 14ª giornata, Fiorentina, allora ritorniamo a vedere i risultati. Fiorentina-Verona è finita 4-3 e poi da poco dovrebbe essere iniziata la partita Lazio-Napoli. Intanto la Juventus perde Pirlo per un mese, infortunio a un legamento del ginocchio destro. lasciamoci con Pirlo e il suo infortunio. Vi ricordo che ci sono appunto i due canali per i vostri messaggi, in particolare se volete appunto sulle primarie del PD e sul vostro candidato preferito, Effetto Notte, pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure per i messaggi 349-238-6666. Intanto ci sentiamo aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, allora vi ricordo, prima di passare al prossimo ospite, al primo ospite di questa sera, quali sono i fatti principali della giornata. Il rogo di Prato, il ministro del lavoro Giovannini denuncia, in quella zona sono irregolari 3 aziende su 4. L'emergenza maltempo al centro-sud, una donna annega a Pescara, un pescatore travolto da un'onda in Calabria. E poi la verifica di governo, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per il colloquio con Napolitano, sulla crisi dice ripresa, portata di mano, ora la concretezza. Il passaggio alle Camere del governo per il voto di fiducia dovrebbe esserci l'11 dicembre. Calcio verso i mondiali di Brasile 2014, riprendono i lavori allo stadio di San Paolo, ma intanto preoccupano costi e disponibilità di voli e alberghi. E per la 14ª giornata di campionato, Fiorentina-Verona finisce 4-3. E saluto Fabrizio Barca. Buongiorno, buonasera. È un tipo solare lei, evidentemente. Sì, sono finestra. Statistico ed economista Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ministro, ex ministro del governo Monti. Barca, io le devo fare una domanda un po' irriverente. Posso? Certo. Io la faccio. Perché parlando, no, tempo fa si parla con amici, parenti, conoscenti, eccetera, si parla di politica, a un certo punto, ed è successo in vari momenti a varie persone, ci si è chiesti, ma Fabrizio Barca, che fine ha fatto? Perché sembrava, mesi fa, sembrava fosse il candidato, diciamo, dell'establishment, possiamo dire così, del PD, e tutti dicevano, Barca, sì, è stato ministro Monti, è stato uno in gamba, e poi improvvisamente non si è più saputo niente, almeno così, diciamo, a livello di opinione pubblica, di non addetti ai lavori. Che cosa ha fatto Barca? Questa domanda non mi prende di sorpresa, perché ogni tanto esce fuori, devo dire, anche io sono rimasto su Twitter dopo essere centrato durante l'esperienza di governo, e effettivamente ogni tanto leggo, ma che fine ha fatto Barca? Meno male, no, pensavo di essere maleducata. No, non lo è stata. Ma guardi, io credo che la domanda derivi da questo fatto, dal convincimento che posso avere causato, e mi dispiace, ma non l'ho mai detto, che la ragione per cui, finito il governo Monti e ritornato a fare il mio lavoro di amministratore, avevo anche deciso di occuparmi di Partito Democratico, di occuparmi il sabato e la domenica quando posso, prendendomi il giorno di ferie. Questo dava il segnale, cioè, vabbè, vuol dire che evidentemente va e mira a chissà che cosa. Ora, io non è che non sono ambizioso nella vita, mi piace, come dire, esercitare le idee che ho e dai posti rilevanti, però nel PD ci sono entrato per discutere un'idea. E quindi non ho mai cambiato, non ho mai avuto l'idea di fare una corsa per dei posti, l'ho detto sin dall'inizio, e non ho cambiato idea. E invece ho incrociato in giro per il Partito Democratico, mentre qualcuno si chiedeva dove ero, stavo in giro per circo. Lei ha fatto un tour in giro per l'Italia, sì, no? Sì. Ho incontrato 15.000 e più persone in piccoli incontri da 200, 250 ciascuno, sentendo cosa dicevano. Ma i circoli del PD è andato a trovare? I circoli del PD, sì, prevalentemente, ma abbiamo fatto i conti un tanto al chilo e alla fine abbiamo scoperto che di persone del PD ne avevamo incontrate il 50%, 7.000 persone che ho incontrato in realtà sono persone che si affacciavano per capire che sono di sinistra, per capire se questo partito tornava ad essere quello che loro speravano, che avevano sperato in passato. E qual è il risultato di questo viaggio che ha fatto, di questo tour, Barca? Ma che la sensazione iniziale era giusta, cioè il partito esiste un partito democratico nel senso che ha uno statuto, che ha delle elezioni, che fa le cose brutte, quelle che abbiamo letto sui giornali, iscritti, artefatti, per costi che non funzionano, e accanto a questo ha un sacco di teste che ci stanno perché pensano ancora, aperte virgolette, di volere cambiare il mondo, chiuse le virgolette, e che provano a farlo nei loro posti, nei loro luoghi, che sono quelli che piacciono a me, con cui penso che sia utile che io possa lavorare, e da qui anche l'idea per come andare avanti. Però lei è un iscritto al PD, non è un parlamentare, ha intenzione di diventarlo, di entrare attivamente? No, già, come dire, il mio ruolo istituzionale l'ho avuto nella mia vita e ce l'ho adesso come amministratore, no, non è questo quello che ho in testa. Quello che ho in testa per i prossimi mesi è di finita, come dire, capito cosa meglio che cosa il partito domandava, incrociate le mie idee con quelle che, con, diciamoci la verità, con le esperienze che già c'erano in giro, perché non è che io ho scritto che ci vuole un partito palestra, un partito che sappia rientrare le persone, dove si discute in modo animato, aperto, anche molto acceso, e qualcuno già prova a farlo, e non è un partito dove si va per trovare meglio lavoro, per essere piazzati negli enti pubblici, che pure c'è anche quello. Mi dice qual è il suo candidato, Barca? Il mio candidato è Pippo Civati, perché dopo lunghi pensamenti, letta anche il suo documento, è la persona che si è esposta di più e che dà dei segnali forti di volere rinnovare, che si sintonizza moltissimo, soprattutto con i giovani in giro per il paese. Questo mi ha impressionato, giovani che veramente aderiscono al PD come aderisce all'associazione Greenpeace, non per far carriera. Mi dice, ecco, quindi i giovani, altri due o tre punti che la convincono di più da parte di Civati rispetto agli altri due candidati, quali sono? La sua forte convinzione che il PD debba lavorare per ricostruire un campo largo della sinistra, il fatto che parla di sinistra in un modo, diciamo, solido, come del resto fa anche Gianni Cuperlo, però anche con molta freschezza, con molte idee che sono di domani, che sembra avere in testa, che mostra di avere in testa il 2033 e non gli anni 80, tanto per essere chiari. Lei ha parlato di sinistra, che Civati torna appunto a parlare di sinistra, di un partito di sinistra, un po' che in Cuperlo, però non ha citato Renzi volutamente, non lo ritiene di sinistra. Renzi è il grande candidato, è la persona che ha più chance di vincere, le sue caratteristiche le conosciamo, anche lui è un innovatore ed è bello avere una gara dove ci sono innovatori contro innovatori, giovani tra l'altro di un'età ragionevole, quella che vorremmo avere, che altri paesi che hanno cambiato hanno messo alla guida del loro paese o di un partito. Non ho ancora capito, Renzi non ci ha ancora detto, convinto di volere davvero rinnovare il partito e non solo di cambiare una filiera di potere con un'altra filiera di potere. Sono sicuro che quando sarà alla guida, se sarà spronato da una bella, forte minoranza civatiana, ci darà qualche bella sorpresa, voglio crederlo, però va premuto, Renzi va tenuto stretto. Secondo lei, tenuto stretto nel senso con le redini, come i cavalli anzi, deve scatenarsi, deve cambiare tutto, deve far saltare le cose, bisogna che non si risieda, bisogna che non faccia come hanno fatto altri in passato che hanno detto io sono l'innovazione. E poi dopo. E quindi questo straordinario piano di lavoro che annuncia Renzi, le sembra una cosa abbastanza fattibile e credibile o le sembra un'evocazione? Ma guardi, io con sacrosanta verità, da chi si candida a segretario di un partito, vorrei soprattutto indicazioni su come intende guidare l'associazione partito. Noi abbiamo in questo momento un Presidente del Consiglio, abbiamo un governo che mira a durare durante il prossimo anno. Dal partito vorrei non un programma alternativo, vorrei l'indicazione di quali sono le tre cose che il governo, Renzi ha detto che lo dirà a Letta, mi auguro che ci sia la riforma elettorale, qualche provvedimento ciclico come Dio comanda. Renzi parla spesso di intervento sull'infanzia, sugli anziani, spero che poi quando sarà segretario del partito chiederà al governo di investire in questi campi. Secondo lei Renzi, come accusato da più parti, ha intenzione di far cadere il governo Letta? Questo lo deve chiedere davvero a lui. Sì, sicuro, ma lei avrà una sensazione? No. Non ce l'ha. Bersani... No, ce l'ho. Se me lo chiede, le dico che non credo che abbia intenzione di far cadere il governo. Bersani ha detto, parlando, commentando del confronto di venerdì di Sky tra i tre candidati alle primarie, ha detto è stato un confronto civile con elementi di freschezza, ma forse non è apparso ben chiaro cosa dobbiamo decidere. Dobbiamo decidere il segretario di un partito e sarebbe stato interessante vedere sviluppato il tema che cos'è un partito oggi. Ma al di là di questo, secondo lei poi agli elettori sarebbe interessato sentire che cos'è un partito oggi? Questa è una bella domanda che le fa, perché Bersani ha ragione. E se uno va a leggere ad esempio il documento di Civati, c'è scritto che il partito è in testa. D'altro canto, se io però faccio una cosa in televisione, ecco, e se, come il Partito Democratico prevede, stranamente unico partito in circolazione, che l'elezione del suo segretario dell'associazione PD sia fatta dagli elettori, è chiaro che deve andare in televisione, ma che gliene importa agli elettori? Forse una discussione interna, no, che deve fare il PD, quindi lì c'è una contraddizione che è dentro lo statuto del PD, che è sbagliato. Ha sentito che poco fa al Senato, insomma in serata, è andato in scena l'ennesimo rinvio della riforma elettorale, quindi non so questa riforma elettorale se prima o poi... Bravissimo, speriamo che comunque sia il segretario... Mi sembra di aver visto che in fondo tutti e tre i candidati, anche Gianni Cooper, hanno messo la riforma elettorale a punto numero uno. Non credo che il PD potrà accettare ulteriori slittamenti. Noi abbiamo una legge truffa che consente a un partito con un numero di voti risicatissimo di governare. I nostri nonni e padri non ce l'avrebbero perdonata, e dalle leggi truffa escono sempre governi truffa. Fabrizio Bacca, lei è stato, dicevamo, ex ministro del governo Monti, quindi anche collega della ministra Cancellieri. Lei l'avrebbe votata la sfiducia? Io penso con tutta franchezza che la vicenda sia molto complessa, molto difficile. Su questo tema tutti e tre i candidati hanno espresso una posizione appropriata, rimettendosi poi come si deve fare in un partito, anche se è una posizione diversa, la decisione alla disciplina di partito, insomma. Sì. Senta, questa campagna per le primarie, si aspettano i candidati circa 2 milioni di votanti, però non sembra che abbia prodotto per il momento la campagna, secondo i sondaggi, almeno l'entusiasmo del passato, delle altre primarie. Secondo lei segna un po' questo ulteriore distacco, mancanza di entusiasmo degli elettori, della base? Ma ritorniamo sull'ambiguità, perché come per certi versi, come lei può, perché le altre volte, verrebbe la voglia da domandarsi, così tante persone hanno voluto partecipare alle elezioni di un segretario? Perché pensavano che non stavano eleggendo il segretario di un partito, ma il candidato primo e il futuro. Adesso la gente lo sa che non è detto che l'attuale segretario, che il segretario nominato sarà premier, automaticamente, sì. E quindi c'è anche un minore interesse, perché sai che non stai influenzando la premiership futura. E poi diciamoci la verità, cioè un progressivo continuo distacco fra lo Stato e i partiti, e questo ci rimanda alla questione: i partiti devono tornare ad essere degli strumenti di mobilizzazione, di presidio. Stamattina mi sono trovato davanti a discutere con altre persone della vicenda terribile di Prato, e lì la sinistra, il Partito Democratico, deve dimostrare, perché se esiste, che è in grado di avere una linea che risolva la contraddizione fra lavoro e sicurezza. Non puoi non avere lavoro, non puoi chiudere tutte le fabbriche, ma non puoi tollerare che la gente muoia nelle fabbriche, e questo problema non lo puoi lasciare lo Stato, lo deve affrontare un partito, lo devono affrontare delle persone che ci credono. Lei, io lo conosco il PD di Prato, non ci sono i cinesi iscritti a quel partito. Come fai in un territorio dove sono una componente importante a trovare con loro un punto di mediazione, di contatto, se non li integri? A cominciare da te, che sei partito di sinistra. Le ho fatto un esempio, Sì, sì, no, stavo pensando che Prato, tra l'altro, è stata la sua prima tappa del suo tour, no? Proprio così, e per questo stamattina mi è scattata anche di pancia, perché c'era nel partito che ho incontrato a Prato, nei compagni, negli amici di Prato, la sensazione di avere fallito. Non c'era stato ancora il dramma dei 7 operai, ma c'era la sensazione: non ci siamo. Se dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire dalla capacità di presidiare, di capire come garantire delle condizioni dentro la fabbrica, non solo fuori, perché Rossi stamattina ha detto giustamente: a questi immigrati diamo un buon servizio della salute e un buon servizio della scuola, ma c'è la questione del lavoro in fabbrica. Ultima domanda, Fabrizio Bacca, poi la lascio. Chi è più di sinistra secondo lei, Renzi o Letta? Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Diciamo che sono tutte e due sicuramente possono garantirci, se ce la mettono tutta, un forte riformismo borghese, che a questo paese non fa male, perché ricordiamoci che questo paese c'ha uno Stato che non funziona e ha poca concorrenza, e su questo c'è una base di incontro importante, non fra il sinistra e il centro, perché il centro non ho mai capito cosa voglia dire, ma tra la sinistra e un buon riformismo borghese. Quindi secondo me sono due candidati, sono due figure che possono entrambe contendersi e battagliare su questo terreno. Ma le ripeto, la mia vocazione nei prossimi mesi, ho lanciato proprio stasera, se posso approfittare della sua pazienza e cortesia, ho lanciato stasera una raccolta di finanziamenti piccola per poter andare avanti fino ad ottobre a lavorare con Prato, con Bologna, con Cagliari e con i luoghi del PD che ho intersecato in questi mesi, nei quali ho trovato la voglia di lavorare, ma dove io posso aggiungere, insieme ad altri che fanno lavoro volontario come me, ma supportati da una struttura che richiede qualche soldino, che possano fare un metodo, che manca un metodo. Quindi raccoglie fondi per questo ulteriore tour. Sto raccogliendo questo per poter sabato e la domenica lavorare con loro. Non si sferma mai, Fabrizio Bacca. Bene, allora buon viaggio, buona continuazione e buon lavoro. Grazie Bacca. Grazie molto, arrivederci. Grazie a lei. Piccola pausa per la pubblicità e poi ci sono molte altre storie, come sapete, tutte le sere, altri ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, adesso vi ricordo, dopo la pausa, quali sono stati i fatti principali di oggi e poi cominciamo a parlare in particolare di Prato con un noto, famoso cittadino di quella città. Il rogo di Prato, per l'appunto, per iniziare le notizie, il ministro del lavoro Giovannini denuncia: in quella zona sono irregolari 3 aziende su 4 e Napolitano dice è un insostenibile sfruttamento. Emergenza maltempo, soprattutto al centro-sud, con 2 vittime, una donna che è annegata a pescare in un sottopassaggio e un pescatore che è stato travolto da un'onda in Calabria. La verifica di governo, l'11 in aula per la fiducia. Il presidente del Consiglio Letta si è incontrato oggi con Napolitano proprio per decidere i tempi e sulla crisi ha detto: ripresa a portata di mano, ora concretezza. Calcio, per completare la 14ª giornata di Serie A, Firenze-Verona è finita con un 4-3, adesso in campo ci sono Lazio e Napoli, per il momento pareggiano 1-1. E volevo leggere qualche vostro messaggio prima del prossimo ospite. Dice, per esempio, si firma elettrice di destra dalla Sardegna: ma siamo sicuri che vincerà Renzi? Sto iniziando ad avere molti dubbi, ma insomma è vero che sono migliorati nel scorso confronto inefficacia gli altri due contendenti, Cuperlo e Civati, che a molti sono piaciuti, anche in particolare sentivamo Civati, però insomma nonostante i miglioramenti è molto probabile che così vada a finire. Poi sulla pagina invece vediamo di Effetto Notte, Floriano dice: non si tratta di convincere da parte di candidati ma di vincere a Renzi, l'unico che può battere le destre. Domenico scrive: a dire il vero, e nonostante il mio scetticismo per le primarie del PD, Civati ha veramente fatto centro, mi è sembrato il più convincente. E adesso voltiamo pagina e saluto Edoardo Nesi. Buonasera onorevole Nesi, la chiamo onorevole? No, si è abituato a questo titolo. Edoardo Nesi è scrittore, è deputato eletto con Scelta Civica, ora iscritto al gruppo misto, ex proprietario di un'azienda tessile familiare a Prato per almeno una 15 anni. Nel 2010 ha scritto Storia della mia gente, l'anno dopo ha vinto il premio Strega, quindi insomma diciamo piuttosto multiforme Edoardo Nesi. A proposito di quello che è successo a Prato, lei appunto è stato un imprenditore per diversi anni di lì, proprio nel settore tessile abbigliamento, e quindi tutti adesso dicono insomma era una tragedia annunciata questa dei poveri cittadini cinesi, 7 che sono morti nel rogo, che era un capannone dormitorio dove lavoravano, mangiavano, dormivano, insomma vivevano lì dentro, e questa è soltanto una delle tantissime situazioni, no, del genere a Prato. È possibile che in tanti anni nessuno mai si sia accorto di questa cosa che si è incancrenita, che è cresciuta e dilagata man mano così, Nesi? Ma vedi, è molto peggio di così in realtà, perché a partire da, se mi è concesso, dal mio libro, che qualche lettore l'ha avuto. Storia della mia gente. Sì, per continuare con tantissime trasmissioni televisive che sia soprattutto dopo l'uscita del mio libro hanno raccontato questa parte di Prato in maniera piuttosto evidente, proprio entrando in questi magazzini. Il peggio, come stavo dicendo, è che queste cose erano note, nel senso che le sapevamo, le avevamo già viste, sentite. Niente è stato fatto. Sul perché niente è stato fatto forse bisogna provare a riflettere. Vede, quando noi abbiamo una città di 200.000 abitanti, nella quale 15.000 sono i cinesi regolari, è un numero altamente imprecisato, diciamo così, di cinesi irregolari, ci si trova invece a avere con certezza quasi 4.000 aziende cinesi iscritte alla Camera di Commercio e operative. È impossibile controllarle tutte in un anno, sforzando al massimo gli effettivi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dell'ASL, si riesce a controllarne credo un 10%, ma già sarebbe tanto. In ogni controllo si trova una situazione di completa inosservanza della legge. Però non sembra strano, Nesi, che proprio nel cuore della Toscana, che è considerata come regione un modello non solo a livello nazionale ma anche vista a livello internazionale come culla di civiltà, di qualità della vita rispetto a certe lacune, mancanze, eccessi sia del nord che del sud, si sia potuto man mano sviluppare un sistema illegale di questo tipo e radicare così profondamente senza che nessuno avesse cercato un po' più dall'inizio di contrastarlo, no? Ma guardi, è vero e è terribile al tempo stesso, perché ci si aspetterebbe tutta un'altra civiltà, però vede, da una parte c'è un problema di informazione che troppo spesso tende a omogenizzare un po' tutte le visioni fino a concentrarle in una, e quindi la Toscana rimane la regione dell'arte, la regione della bellezza, i panorami più belli del mondo, il cibo più buono d'Italia, e non si racconta, non si ha il cuore, la forza e il coraggio di raccontare anche queste situazioni che, mi creda, sono veramente terribili, ma temo al di là purtroppo della capacità d'azione delle autorità locali. C'è il presidente della regione toscana, Rossi, che ha detto: a Prato siamo in presenza del più grande distretto tessile sommerso, basato sullo sfruttamento di decine di migliaia di lavoratori cinesi che vivono in condizioni di schiavitù, lavorando 16 ore al giorno e di notte per un euro l'ora. E, dice, dovrebbe partire dallo Stato, dal governo, ci dovrebbe intervenire il governo nazionale in questa situazione. Lei è d'accordo? Ma sicuramente, anche perché poi fino adesso ha fatto ben poco, quindi forse qualcosa potrebbe fare. Rendiamoci anche conto di un'altra cosa che è paradossale e anch'essa terribile al tempo stesso. Queste persone non credono di essere schiave, di vivere in un regime di schiavitù. Come i neri, forse, quando lavoravano nei campi di cotone, tanti pensavano che quella fosse la loro vita e non pensavano che ci fossero delle alternative in questo senso. No, ma qua è peggio, perché loro hanno il confronto con la Cina, nella quale stavano peggio, lavoravano peggio, in condizioni peggiori e veniva pagati meno. Come si fa a convincere una popolazione schiava di non essere schiava? Come si fa, mi creda, a far valere tutti i nostri diritti sacrosanti che abbiamo conquistato col sangue in molti casi, a una popolazione che questi diritti non conosce, non ha mai provato? Guardi, è veramente una situazione molto complicata. Comunque, adesso non so se è un pregiudizio, però dalle cose che lei sta dicendo è abbastanza confermato. È molto difficile, proprio per una serie di situazioni, anche proprio di provenienza, di formazione, no, degli stessi cinesi, riuscire poi a integrarli veramente, a interagire con loro, a renderli partecipi della comunità italiana tutta, poi lì a Prato, come magari a Milano un pochino di più. Ma è vero che è così difficile avere a che fare con loro e cercare, insomma, di amalgamarli poi alla società italiana? Allora, guardi, la prima generazione è fatta sostanzialmente di piccolissimi e piccoli imprenditori che sono venuti in Italia sapendo tre o quattro parole di italiano, e con loro è molto difficile parlare perché appunto sono imprenditori fino al fin del sangue, insomma, non hanno nessuna altro interesse, nessun'altra interesse, nessuna voglia. Poi, e questo è incredibile per una comunità di migranti, non hanno nessuna richiesta, non vogliono niente, non vogliono rappresentanza politica, non chiedono niente, sono autosufficienti. Discorso completamente diverso, per fortuna, è quello che si fa con la seconda generazione, perché questi ragazzi vanno a scuola con i ragazzi italiani e parlano pratese, sono spesso anche molto bravi. Sono innamorati dell'Italia, vorrebbero rimanere in Italia, vorrebbero abbracciare i valori italiani, tant'è che la comunità cinese tempo fa fu costretta a aprire una scuola serale per insegnare il mandarino a questi ragazzi che si rifiutano di imparare il cinese, visto che stanno bene a Prato. Quindi una qualche speranza viene da queste seconde generazioni? Io voglio crederci, voglio continuare ad averla, certo. Senta, prima di lasciarci, Edoardo Nesi, lei appunto era in Scelta Civica, poi Scelta Civica si è un po' disgregata e adesso si è un po' rimpicciolita. Lei è passato al gruppo misto, però non nasconde da tempo, insomma, di essere un sostenitore di Renzi. Lo è sempre? Ma sì, io ho anche partecipato a diverse edizioni della Leopolda, no? Famosa Leopolda. Lei pensa ancora, lei aveva detto, Renzi è l'unica possibilità di riformare l'Italia. Sa perché l'ho detto? L'ho detto perché, stando in Parlamento soprattutto, mi sono convinto che tutto ciò che è un governo oggettivamente composto di persone molto capaci, a partire dal Presidente del Consiglio, continuare con Giovannini, per il quale ho una vera e propria venerazione, fino a Saccomanni, si parla di persone di straordinario livello che però sono costrette a operare in mezzo a difficoltà terribili, a una coalizione riottosa che non vuole stare insieme e con dei limiti operativi anche di bilancio proprio minuscoli. Ecco, io credo che la strada dell'esclusiva competenza debba essere in qualche modo allargata dalla capacità di comunicazione e dal racconto. Ora non vorrei usare la narrazione di Vendola, però è vero storia. Che alle persone bisogna raccontare qualcosa di più dei 40 euro in più che gli verranno dati. E Renzi fa sognare, almeno fa sognare, sarà concreto poi? Lui dovrà esserlo, però vedi, non è tanto il sognare, perché poi se anche il sognare diventa una cosa un po' pericolosa da raccontare. Bisogna provare a raccontare un'Italia futura diversa, ecco. Ciò che può essere. È un'Italia futura che secondo me, senza citare il movimento Montezemoliano, Nesi è scomparso con il movimento Montezemoliano. Pronto? Pronto? Sì. Ecco, sì, era scomparso. Si è un po' crogiolato in questa commozione per Renzi, forse. No, l'Italia futura è andata via. Ecco, si era inabissato con l'Italia futura. Montezemolo aveva. Ho capito, comunque la sua fiducia è ancora forte in Renzi e probabilmente insomma lo vedremo trionfare poi tra 6 giorni. Guardi, perché se Renzi non funzionasse, allora sì che avremo un problema. Avremo un grosso problema, un grossissimo problema. Speriamo di no, allora. Edoardo Nesi, io la ringrazio e spero di riaverla presto qui, allora. Grazie, grazie, buona continuazione. E si è inabissato ancora un po', ma era il momento giusto. Leggo ancora un vostro messaggio a effetto notte trattino Roberta Giordano, la pagina Facebook che dovete cercare per questa trasmissione. Stefano dice credo in poco per tutti e tre, alla fine tutti si rivolgeranno a Renzi visto che gli altri due non sono in grado di portare il partito al governo. Luisa dice io preferisco il candidato di sinistra Civati anziché il democristiano Renzi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui, c'è un collega che è venuto a trovarmi, voi intanto tenetevi pronti ad aprire le finestre se ordinate un pacco, un materiale, qualcosa, un oggetto, e anche abituatevi a scansare, a schivare qualcosa che potrebbe entrare velocemente dalla finestra. Enrico Paglianini, è vero questo annuncio di Amazon, ha detto che entro 4-5 anni consegnerà i pacchi non più col postino che ti viene a suonare, ma direttamente con un drone, cioè quegli aerei senza pilota, esatto. No, di fabbricazione americana? Buonasera, no. Fabbricazione anche italiana, allora, devi sapere che ci sono molte start-up anche in Italia che si occupano di droni. Allora, i droni sono o aeroplani senza telecomandati, pilota. Allora, stiamo parlando di cose però piccoline, infatti meglio chiamarli mini droni, che i droni normalmente sono quelli sono che sono molto i militari. Grandi, per, questi che consegnano i pacchetti sarebbero Pakistan, piccoletti. Insomma. Sì, sono mini droni, allora possono essere, ma tendenzialmente sono quasi tutti elicotteri a più rotori, 6 rotori, 8 rotori per ragione di stabilità e sicurezza. Dicevo, ci sono anche molte startup italiane che stanno facendo, perché già oggi questi mini droni vengono utilizzati per riprese aeree, per andare a controllare cose in zone pericolose, tipo i cavi dell'alta tensione. Si possono andare a controllare con gli elicotteri oppure oggi più vengono comodamente con questi droni. Esatto. Ma però Amazon... la regolamentazione è ancora molto, diciamo, in Italia ma un po' in tutta Europa e soprattutto negli Stati Uniti siamo ancora in presenza di una regolamentazione molto lacunosa, si va per autorizzazioni, insomma, in Italia verso la fine dell'anno dovremmo avere una regolamentazione, negli Stati Uniti addirittura si parla del 2015. Devo anche dire che questa notizia non è nuovissima, ci avevano già pensato. Allora, in Cina ci sono alcune aziende che fanno alcuni test, in Australia c'è una spedire il materiale con questi droni, esatto, a casa, sì, dei clienti. Si tratta di pacchetti piccoli, un chilo, 2 chili, 3 chili, un libro, dei guanti, sì. Sì, in Australia c'è una startup che ha detto consegneremo i libri nelle città dal 2014, quindi non è che Amazon si è inventata una cosa esclusiva. Loro stanno lavorando anche a questa idea. Che certo, il negozio virtuale più grande del mondo, quindi fa più notizia, no? Sì, questa cosa. Esatto, esatto. Devo anche dire che c'è chi ha detto che questa sia una ottima gestione di crisi aziendali, perché le ultime notizie, gli ultimi titoli relativi ad Amazon nelle ultime settimane, fa, no? Sì, di poche, insomma, di queste ultime settimane, erano relativi invece a scioperi che soprattutto in Germania ci sono stati lavoratori che non sono molto contenti delle condizioni di lavoro all'interno dei magazzini. Abbiamo parlato poco fa dei poveri cinesi a Prato, ma anche lì, insomma, con Amazon adesso si probabilmente non sono la situazione non li metterei ma parlo di sfruttamento, piano. Di sfruttamento, cioè di ore di non lavoro. La metterei su questo piano, però insomma si lamentano delle condizioni di lavoro, quindi sicuramente è una mossa azzeccata per parlare di altro, però i media hanno capito che la gestione delle crisi aziendali, insomma, sappiamo come funziona. Quindi la sparata grossa per cercare di distrarre quella situazione. Direi proprio di sì. Però insomma, si sa mai, tenetevi pronti. No, ma sicuramente succederà. Succederà. Non c'è dubbio, ma da molto tempo ci stanno studiando, però casualmente salta fuori adesso. Potevano parlarne tre mesi fa, potevano parlarne fra sei mesi, no, adesso. Comunque, insomma, qualcuno può cominciare a sognare, controllate bene gli infissi delle finestre che potrebbero essere utili da aprire agevolmente. Sì, ma arriverà nel cortile, difficilmente. Vabbè. Meglio pensare così, che sul balcone evitiamo insomma, incidenti. Sì. Benissimo. Grazie Enrico Pagliarini. Buonasera. Grazie. Saluto invece adesso Daniele Izzo, perché l'altra emergenza, dicevamo oggi, è quella del maltempo, non solo di oggi ma di questi giorni. Daniele Izzo di Epson Meteo. Daniele, nei prossimi giorni che ci possiamo aspettare che si tranquillizzi un po' questa ondata di maltempo? Allora, diciamo che sicuramente la situazione migliorerà in maniera definitiva nella giornata di mercoledì. Questo vuol dire che purtroppo ancora domani avremo a che fare con maltempo, soprattutto nelle regioni meridionali. Nelle prossime ore la situazione migliorerà però sul centro Italia, quindi per fortuna quantomeno le piogge in Abruzzo, nelle Marche, nel Molise, duramente colpite nelle ultime ore, le piogge tenderanno a cessare in queste regioni, quindi quantomeno qui la situazione migliorerà. Continuerà invece a piovere e anche a diluviare nelle regioni meridionali, in Sicilia e anche sulla Sardegna, per cui direi che l'allerta per tutta la giornata di domani riguarderà le regioni meridionali, le estreme regioni meridionali. In modo particolare vorrei sottolineare come probabilmente domani in una delle regioni più colpite sarà la Calabria, dove effettivamente le piogge insisteranno un po' per tutta la giornata e saranno piogge anche intense, anche sotto forma di temporali. Per cui direi che domani davvero le regioni meridionali saranno le regioni più colpite, mentre migliora sul centro Italia. Quindi un po' di sollievo almeno per il centro Italia, però il sud, quindi Daniele Izzo, continua a essere battuto insomma dal maltempo. E quando potrebbe migliorare la situazione? Domani allora, è particolarmente forte in Calabria? Sì, poi diciamo che mercoledì la situazione migliorerà anche al sud, per cui diciamo mercoledì dovrebbe essere una giornata soleggiata o comunque tranquilla in tutta Italia, anche nelle regioni meridionali ormai questo ciclone si sarà allontanato e questo vuol dire che avremo una parte centrale della settimana, intendo dire mercoledì e anche giovedì, con una situazione per fortuna tranquilla da nord a sud, sole un po' ovunque, le temperature tenderanno un po' a risalire, per cui sicuramente le cose andranno decisamente meglio a partire da mercoledì, però insomma lo ripeto, domani altra giornata davvero difficile e dura nelle regioni meridionali. Grazie Daniele Izzo, grazie. E con queste previsioni per il momento ci lasciamo, poi ritorno giusto qualche istante, come vi ricordate, per chi ascolta in genere effetto note, a ricordarvi i fatti principali.